piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. In queste settimane ci sono arrivate decine di mail e di messaggi di attrici pronte a denunciare ai registi che le avrebbero molestate. E una gran parte di queste segnalazioni riguarda ancora una volta Fausto Brizzi. Per garantirgli il diritto di replica abbiamo provato a chiamarlo. Servizio di segreterie telefoniche. E lo abbiamo cercato in ogni modo. Nello studio ci hanno raccontato che Fausto Brizzi faceva questi provini, che provini non erano. Al momento non risponde nessuno. Naturalmente siamo pronti ad ascoltare la versione di Brizzi in ogni momento. Se lo ritiene opportuno, noi siamo qui. Ma siamo ancora disposti ad ascoltare anche tutte le altre ragazze che sostengono di aver subito delle molestie. Da qualsiasi regista o produttore, di cinema o di televisione. Perché queste porcherie non devono succedere mai più. Ragazze, se dovesse succedere una cosa del genere, dovete denunciare subito. Perché se ci uniamo tutte, noi siamo più forti. Voglio dire a tutte le ragazze che hanno vissuto una situazione del genere, raccontatela. Denunciatela, è una violenza. Un mostro, cioè in faccia non era più lui. Gli uscivano le vene, gli occhi rossi, era diventato tutto rosso. A un certo punto mi ha proposto di fare degli esercizi di recitazione. Ma vabbè, dai, intanto magari dobbiamo fare un mestiere. Mi ha detto, vabbè, iniziamo, facciamo un po' di improvvisazioni. E poi l'ultima scena ha detto, prepariamoci, girati. Quindi io mi sono girata, mi ha chiesto, sei pronta? Mi giro e lo vedo completamente nudo. Si era tolto pure i calzini. Tutta la mia forza l'ho spinto sia con le mani che con i piedi, fino a farlo cadere fuori dal letto. Guardava negli occhi in modo così viscido. Mio Dio, che schifo. Ha un pantalone stretto e la mutanda è uscita con lui. E sentivo che stava aprendo un filaggio. Ho detto, oddio, che cosa sta facendo? Lui... Ormai è entrato nella quotidiana riflessione sulla violenza sessuale il servizio delle Iene, andato in onda nella sua ultima fase appunto ieri sera, dove sembrano convergere tutte le testimonianze delle attrici intervistate dalle Iene verso un unico personaggio, sul quale questa mattina naturalmente si è creata proprio la massima discussione. Vorrei uscire lateralmente, se possibile, dall'obiettivo già sin troppo calcato, sin troppo non è mai troppo, ma molto calcato da tutti i media, delle molestie nell'ambito del cinema, dello spettacolo, insomma dell'ambiente in cui si muovono attori, attrici e produttori. Non perché sia un ambiente in cui può accadere qualunque cosa, ma perché poi la maggior parte delle persone che ci ascoltano, che vivono la loro vita quotidiana, sono nemmeno lambite da quell'ambiente, vivono in un altro mondo. È stato scoperto che nel Sancta Sanctorum della celebrità, quel luogo in cui tutti vorrebbero entrare, da cui tutti vorrebbero essere contaminati, entro cui la gente si muove con una splendida realizzazione di se stessi, che sembrano toccare il cielo con un dito, sembrano avere tutto quello che la vita promette poi non dà alle persone normali, accadano cose del genere. Esiste un meccanismo vessatorio per cui per poter entrare nella celebrità bisogna accedere al ricatto sessuale da parte delle donne, naturalmente, delle attrici. Fermiamo un attimo e congeliamo l'attenzione da quello che stanno facendo le Iene, stanno facendo un po' tutti. Entriamo in un altro ambito, nell'ambito quotidiano. Delle persone che mi ascoltano sono una percentuale piccolissima, quelle che lavorano nel mondo dello spettacolo, che hanno rischio, pericolo, o sentito dire, o esperienza di aver vissuto qualcosa di simile. Sono persone che si muovono in uffici della quotidiana e banale burocrazia, in uffici pubblici, in uffici e studi privati, hanno a che fare con medici, con avvocati, con commercialisti, con dirigenti, con caporeparto, insomma, nelle altre professioni, negli altri aggregati umani in cui si muovono uomini e donne, comunque può essere amministrato anche in maniera vessatoria, vigliacca e violenta, l'imposizione di un rapporto sessuale o di una promiscuità non desiderata. Accade la stessa cosa? Altri quanti colloqui di lavoro possono essere fatti per fare i lavori più disparati, dal vendere gli aspirapolvere a fare il rappresentante di cosmetici? Esiste questo tipo di meccanismo? E qual è il tipo di meccanismo? Beh, questa mattina voglio fare con voi un esperimento. Vi faccio sentire una testimonianza che al tempo consideravamo quasi un'eccezione, qualcosa che ci sembrava molto strano, singolare. Era una ragazza, una giovane attrice che ad aprile del 2016

e ho delle collaboratrici femmine, okay? Sì. Sia colleghe che mie collaboratrici, mie dipendenti. Allora, premesso che sono uno che con le donne non ci prova, perché sono sposato e un bambino di 9 anni. Vabbè. E poi non lo ritengo etico, però vedo che c'è proprio questo malcostume tra gli uomini, sia clienti che anche interni all'azienda, di provarci in un modo insistente, quasi pesante, con sia mie colleghe a pari livello che anche i miei collaboratrici. Più di una volta sono dovuto intervenire io, andare da un cliente e dirgli: guarda, per favore, la ragazza è qua per lavorare, se per cortesia la puoi smettere, grazie. Per cui assisto ogni giorno a... Non so però qual è il confine, questo volevo chiederlo a lei, tra la molestia e il provarci, cioè... Adesso non... Cioè il corteggiare, vuol dire lei, quello che può essere un simpatico corteggiamento, che un cliente, diciamo, parla che... con una sua collega, dice esatto, pranziamo assieme oggi, perché potrebbe esserci niente di male, lei dice no, finisce lì. Esatto, ma a volte diciamo che sono anche abbastanza insistenti, mandano SMS, mandano WhatsApp, ma non solo clienti, anche manager, anche all'interno dell'azienda, gente insospettabile. Per cui diciamo che... Però il confine tra molestia e non è molto labile, nel senso che io a volte ho visto questi WhatsApp e questi SMS, perché con me si confidano, diciamo che è difficile che io possa andare davanti alla Human Resources a dire: guarda che l'hanno molestata, perché sono molto borderline, ha capito, queste cose. Devo dire che io ho avuto confidenze da parte mia di probabilmente persone che sono nell'ambito della sua professione, sue colleghe, che dicono: io non so cosa fare, questa persona è mio capo, non riesco a capire il limite, mi invita la sera improvvisamente ad andare a cena con lui che è solo, mi sembra brutto dire di no, perché se dico di no poi magari sembra quella che se la tira, ma so esattamente tutte quelle colleghe ci sono uscite e poi finivano a letto con lui, quindi evidentemente sono quella rimasta fuori da questa catena di imprimatur necessario. Oppure c'ho l'altro collega che ogni volta che sto in un corridoio mi dà una palpatina, poi ci ride e scherzo, lo dico alle altre colleghe e mi dicono: ma lo fa con tutte, ma se lei non va che lo facciano anche con lei, deve subire anche questa cosa. Il meccanismo è molto limaccioso, Luca, però vede, nell'ambiente dello spettacolo si poteva dire esattamente la stessa cosa. Qual è il limite del provino, il limite della galanteria, il limite del provarci, il limite di una sorta di rubare un cameratismo non richiesto dei colleghi in un ambiente che magari normalmente può essere promiscuo? Beh, il limite si è capito in questo momento, il limite sarà la denuncia penale, il limite sarà una vicenda processuale che investirà una persona, visto che ormai le testimonianze sono tante. 800240024, vi mando un altro pezzo di questa intervista fatta 1 anno e mezzo fa, in cui ancora non si parlava in maniera così insistente e capillare di questo tipo di meccanismo. Vedete, il meccanismo era ben chiaro. Quindi tu hai capito che... Io ho capito, mi faceva ridere perché appunto era una persona di potere, non potevo credere che una persona del genere sposata... Ma se il potere, questo è il lato oscuro del potere, che alla fine sei talmente illuso che il potere corrisponda all'onnipotenza, che fa anche queste cose. Comunque mi faceva molto ridere, faceva dire: senti cara, se me la dai forse faccio qualcosa, se no no. Io onestamente, fossi di potere, direi così: sai, perde tempo con le storie. Ma io avevo messo le mani avanti, ho detto: ma... Ah, qui avevi cominciato te a mettere le mani addosso. No, avevo messo le mani avanti al nostro primo incontro, quando mi ha detto: non ti conosce nessuno, così. Dici: io non la do subito. Io ho detto: beh certo, perché non la do. E beh, hai fatto bene. Beh, allora com'è finita? È finita che sono riuscita a reggere tipo un'oretta in questa situazione qui, e poi l'ho sfidato a biliardino. A biliardino? Sì, perché c'era un biliardino. E beh, quella è per la metafora delle mazze, delle palle, chiaro. No, in realtà è che la situazione si era fatta veramente tanto pesante. Giochiamo a biliardino. E allora io alla fine, cioè, siccome lui voleva qualcosa che io non gli avevo dato, la situazione era molto tesa, non sapevo. Cioè, cominciava tutto sudato. Era un po' agitato. Eh sì, lo sai, però ti dico, sai perché? Si era impillolato considerando i tempi. Ha detto: c'ho un'oretta e mezzo. Poi dopo diventa imbarazzante la cosa. Sì, cioè, stai mettendo in dubbio. No, lui sarà impasticcato sicuramente. Un uomo che fa così va a botta sicura. Si impasticca subito e c'ha il cronometro in mano. Dopo mezz'ora l'effetto, poi dopo non so adesso come funziona bene. Però secondo me. Ah, non lo sai. Era lì, lui giocava a biliardino, ma con le mani in alto, capito? E infatti ho vinto io. Certo, è logico. Però a quel punto mi sono pentita, perché avrei potuto scommettere qualcosa a quel punto per la partita a biliardino. Non l'hai più sentito e visto? In realtà mi ha scritto dicendo: hai capito male? Perché? No, perché io non sono stata molto serena con lui. Non gli ho detto: tu stai provando a fare qualcosa con me che io non voglio. Mi faceva molto ridere, ho tenuto delle distanze, non mi sono lasciata toccare. Poi ho voluto finirla anche, cioè, non volevo inimicarmi una persona che sì, oggettivamente certo. ha piede nel 50% del cinema e della televisione italiana. Poi te la fai pagare poi alla fine. Esatto. Poi vedi, funziona ancora così, beh, evidentemente, e scapisci. Delle 55 che gli passeranno il giorno davanti, magari due o tre passano. E poi è stato buffo perché l'ho visto in TV con sua moglie. Sì? Sì. Vabbè, io la moglie, io in quel caso... fa parte del suo lavoro. Però devo dire la verità, che l'ho capito, perché la moglie sembrava un pochettino... triste? No. Sempre sono tristi le mogli. Psycho un po'. Psycho? Una criminale? Non so, così. Cioè già è morta? No, non deve essere facile avere una così in casa. Ho pensato, non vabbè, per... vabbè, mica l'ha obbligato qualcuno, sarà sposata lui, no? Sì, infatti. Che quindi già ti fa tenerezza quest'uomo? Ma mi ha fatto subito tenerezza, perché non... ma come si fa, dai? Lasciamo a tutti quelli che ci ascoltano, che hanno elementi di conoscenza ravvicinata più raffinati, per poi dare una possibile identità magari a questa persona, tenendo conto di quello che ha detto la giovane attrice. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. A mia moglie lo scorso mese andò a cercare lavoro, cambiò lavoro, e trovò un annuncio dove insomma cercavano una persona col suo profilo. Che tipo di lavoro, si può sapere? Era un lavoro di vendita praticamente. Ma vendita, sì. Di sistemi nuovi, vabbè. Un agente cercavano. Esatto, un agente. E andò a fare questo colloquio con questo signore, il quale gli disse che gli andava bene, che il profilo era tutto a posto, eccetera, eccetera. Quindi mia moglie era molto contenta perché insomma si reinseriva nel mondo del lavoro dopo tanto tempo, insomma, e la soddisfava questa cosa. E quando poi andò a fare il colloquio definitivo per poter definire le cose, questo signore gli fece intendere, glielo disse proprio palesemente che lui avrebbe accettato la sua richiesta se lei soggiaceva insomma alle sue richieste sessuali, proprio esplicitamente. Ma così lo disse, proprio o me la dai o niente? Esatto, se me la dai o sei a mia disposizione anche per sesso, tanto tuo marito non viene a sapere nulla, eccetera, eccetera. E mia moglie rimase sconcertata da una cosa del genere, tanto che uscì e mi chiamò subito piangendo e dicendomi questa cosa. A quel punto la mia reazione era quella di prendere la macchina, andare là e prenderla a calci nel culo. E poi però riflettendo a tutta la cosa non c'era nessun elemento probatorio per poter procedere oltre. Sì, ecco. Doveva fare tutta una cosa abbastanza complicata, far esatto. Finta di starci, avvertire. Esatto, poi si pensò anche noi, chiamiamo le Iene, queste cose, però alla fine la cosa migliore per noi era quella di ignorare la cosa e andare avanti, anche se questo poi ha reiterato le richieste anche della settimana a seguire, insomma. Quindi questo continuava a insistere anche se poi non aveva ancora deciso per il lavoro? Esatto, continuava a insistere anche, cioè nel senso, continuava a insistere proprio in modo molto, molto palese, mandando messaggi, insomma. Però a quel punto avevate qualche piccola prova. Però vede, avevamo, però erano tutti generici come messaggi. Lei però ha detto una cosa che ma in qualche maniera ha spiegato un dilemma. Gran parte lecita riflessione sulle vicende di molestia legate a un programma televisivo dicono: ma perché dicono le Iene, chiamate le Iene e non dicono chiamate direttamente la polizia? Perché? Perché avvertire le Iene sia anche il pacchetto completo di tutta la possibilità di avere le prove, perché le Iene poi ti creano la situazione in cui mandano un'altra attrice avvenente dello stesso posto, come è avvenuto ieri sera nell'ufficio di un agente finanziario che aveva sempre lo stesso format, le faceva sedere sulla sedia, si sedeva dietro, le cominciava a palpeggiare, poi andando avanti cercava di arrivare allo scopo, offrendo poi palesemente soldi. Fermiamoci un attimo. 800 24 0024. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. 800 24 0024. Stiamo descrivendo se possibile il mondo delle molestie, del ricatto sessuale che fanno uomini su donne, uomini che hanno possibilità di farle accedere al mondo del lavoro, qualunque sia la professione, però vogliamo appunto uscire dallo stretto ambito del mondo dello spettacolo. Perché non illudiamoci, i giornali ne parlano tanto, le TV ne parlano tanto, noi ne parliamo tanto, perché i coinvolti sono uomini di successo, uomini noti, registi che hanno fatto film, che appartengono a circoli di potere, vicini alla politica, e se ne parla tanto. E se a compiere queste molestie plurime fosse il venditore di macinini da caffè di cui ha parlato il nostro ascoltatore prima, che chiede esplicitamente delle prestazioni sessuali a donna far lavorare, probabilmente non ci sarebbe questa attenzione. Yolanda, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno. L'ascolto. Allora, io parlo per quando ero giovane, perché adesso sono in pensione, e questo è un fenomeno che è sempre esistito da sempre, in tutte le realtà. E quando ero molto giovane, che cercavo lavoro nelle aziende piccole, dovevo sempre difendermi, e appena mi venivo invitata a cena, e, insomma, c'erano le richieste anche abbastanza esplicite. Io riuscivo a sorpassare dicendo: ma le presento le mie amiche, io non voglio mischiare rapporti sentimentali, eccetera. Poi, per evitare questo problema, sono andata a lavorare in un'azienda grande, pensando che almeno lì fossi salvo. E non è stato così, perché anche lì c'erano i dirigenti, le solite cose, come avvengono nel mondo del cinema, ovunque succedono. Quindi lei, Yolanda, dice il meccanismo è il medesimo, non cambia nulla. Non è il produttore, ma magari è il capo di un ramo dell'azienda. E tra l'altro anche persone che fuori da quell'ambiente lì non dicono nulla, sono proprio, però hanno il potere, e questa cosa qui la fanno pesare addirittura in questa grande azienda, una grande azienda di moda. Mi faccio un esempio concreto, Yolanda, per capire, perché mi piace capire il meccanismo, è il format delle cene aziendali che mi interessa, no? Le famose cene aziendali che si fanno ogni tanto, ecco, in queste occasioni qua poi si andava a finire in discoteca, in cui si invitano tutti i dipendenti e poi si beccano le ragazze più carine, no? E si fanno le avance un po' così o meno. Se poi qualcuna non va a queste cene, non fanno, si prendeva l'aumento al merito. Ovviamente era tutto in modo molto mascherato, non era chiaro. Quindi è un obbligo quasi fantoziano di dover andare alla cena aziendale. Cioè, certo, quando il capo, certo, ti invita tutti. Ma lei parla di cene allargate oppure... Cene allargate, queste erano, perché ce ne sono di varie tipologie, queste erano le cene allargate. Perché molte volte sono anche cene, che ne so, la sera il capo si fa tardi, dice: beh, andiamo tutti a cena insieme, i 7, 8, 10 dipendenti del suo ufficio, ecco, ad esempio, nel caso fosse un professionista. Sì, anche in quel caso lì, ma nel caso mio specifico erano sotto Natale, sotto Pasqua, insomma in date particolari, e poi succedevano queste cose. Poi io sono stata abbastanza, come dire, molestata, forse perché sono biondina con le treccine piccoline, e quindi magari... Ma le treccine ce l'ha avuta all'asilo, mica quando andava a lavorare. No, le portavo. A lavorare con le treccine, va bene. Vabbè, mi portavano le trecce, i capelli lunghi. Vabbè. Comunque, allora andava... Ma comunque... Ma no, uno va come vuole, chiaro. Ma sì, vabbè, no, questo era solo per dire che mi sono fatta tanti sensi di colpa assurdi, ma avevo 20 anni. Portavo la minigonna perché negli anni 70 si usava così. Quindi lei si era colpevolizzata, pensava fosse colpa sua. Mi colpevolizzavo proprio perché dicevo: ma sarò io che magari sono mio, per strizzo gli occhi, non lo so, mi facevo 3.000 problemi. Poi, crescendo, sono diventata delegata sindacale, e da lì sono cessate le molestie per me. E provvede, Yolanda, l'attrice intervistata alle Iene dice la stessa cosa. Io pensavo, quando mi ha detto mettiamoci nudi a letto, che realmente dice: ma sarò io provinciale che non capisco che in realtà tutti fanno così, devo provare una scena di sesso per vedere se brava a recitare. Poi quando l'uomo cerca proprio di infilarglielo dentro, dice: ma a me è venuto qualche dubbio che in realtà una scena al cinema arrivasse a questo punto. Allora si è alzata e ha reagito. Il meccanismo è talmente melifluo, avvolgente, che vi fa pensare che in realtà è colpa vostra che non capite quanto sia importante stare al gioco, quanto sia moderno stare al gioco, quanto sia necessario comunque nell'ambito dei rapporti sociali essere anche più disinvolti. Giuseppina, buongiorno. Pronto? L'ascolto. Pronto, buongiorno Nicoletta. Allora, intanto io voglio dire, smettiamola di cadere dal pero, perché se ogni mamma veramente intervistasse la propria figlia scoprirebbe che ha avuto dei problemi del genere. Quindi nessuno di noi lo racconta perché sembra brutto, sembra addirittura che sia colpa nostra, cioè ce lo teniamo ed è una delle cose anche pesanti, per cui tutta la solidarietà all'Argento, perché è chiaro, lei non ha parlato con nessuno, nemmeno con suo padre, forse perché è imbarazzante, vi assicuro, uomini, che non potete immaginarlo, però... la mia mamma non mi aveva creduto, io avevo 14 anni, era mancato mio padre e ho avuto un grave esaurimento nervoso, allora dietro consiglio di un medico mi ha portato da uno specialista che mi faceva fare la cura del sonno. Ora mi metteva su un lettino in sottoveste come si usava negli anni 70, avevo la mia sottoveste sulle ginocchia. Comunque sdraiata mi faceva questa iniezione, io dormivo, però tant'è che solo nella preparazione sentivo che quest'uomo era viscido, no? E nonostante tutto non sapevo cosa dire, al che dopo la terza iniezione una mattina decido di non risvegliarmi, nel senso che fingo di dormire ancora. Questo signore, dottore, dico, ma non lo era secondo me, entra nella saletta e si siede a fianco a me e mi mette una mano sulla coscia e io sempre ferma, guardi, tremavo da morire. Piano piano lui si avvicina sempre di più, poi mi alza la sottoveste, allora in quel punto io fingo di risvegliarmi piano piano, in quel momento lì apro gli occhi. Quanti anni aveva, scusi lei Giuseppina? Come sta? Insomma, quanti anni aveva al tempo? Io allora avevo 14 anni. Una ragazza, sì. Non ero tanto furba, nel senso non ero smaliziatissima, però sentivo... il viscido, capito? Si sente. Fingo di risvegliarmi, quando esco dallo studio lo dico con mia mamma, lei non mi vuol credere, anzi mi dice non si dicono queste cose, come se io mi fossi inventata. Dopo, quando avevo 20 anni, che abitavo poi ormai altrove, mia mamma mi manda un articolo del giornale di Torino dove veniva appunto segnalato questo medico che aveva una collezione di filmini di ogni tipo, composizioni, fotografie... Insomma, era stato incastrato nella sua perversione. Quindi però, vede, dà ragione al fatto che in effetti questi episodi vanno denunciati. Ormai mi sembra che c'è un tal circuito di comunicazione, nessuno può cascare dal pero, come dice lei, far finta di equivocare. Stiamo, se possibile, questa mattina dando spiegazione a quello che è il format. Mi piace sintetizzarlo in questa formula. È un format, quello della compulsività che porta appunto a una molestia o a volte anche a un atto sessuale non condiviso. Ecco, quando si individuano comunque l'incipit di questo format, si è nell'ambito di una molestia e quindi occorre denunciare. Se volete alle Iene, se pensate che poi sia importante avere le prove televisive in modo che diventi inequivocabile la violenza, ma come sarebbe più normale, più giusto in un paese che funzionasse, alle forze di polizia. A tra un istante. Melog 800240024, l'istituto delle molestie sessuali, che sembra qualcosa di vecchio come il mondo contemporaneo, di diffuso come in qualsiasi mondo e ambiente di lavoro, come nell'ambiente dello spettacolo, che è centrale in questi giorni. Simona, buongiorno. Oh, buongiorno. Chiamo dal Piemonte, provincia di Cuneo. Molestie sessuali, come giustamente dice lei, grandi attori che dicono, che fanno, eccetera, esiste in tutto il mondo. Io a 10 anni ho avuto una molestia sessuale in un cinema, ma ho detto ai miei genitori questa cosa e quindi presumo che dipenda anche dall'educazione che uno riceve. Io ho insegnato ai miei figli che qualsiasi cosa che allora a loro succeda me lo vengano a dire. Sì, Simona, è un altro ambito. Cuno è stata protagonista della nostra ultima trasmissione, ha parlato di una violenza sessuale poi accertata e confessata nei confronti di un ragazzo anche disabile. Qua stiamo parlando di molestie come ricatto predatorio nel mondo del lavoro, delle molestie fatte nei cinema, l'ambito dei porcaccioni che abbiamo già parlato. Le persone che normalmente si presentano al mondo del lavoro sono già autonome da doverlo dire ai genitori, non è che devono dirlo alla mamma, devono dirlo se possibile al commissariato. Rachele, buongiorno. Buongiorno. Sì, l'ascolto. Sì, è capitato anche a me, io sono di Paderno Dugnano, qua c'è una clinica e 5 anni fa, siccome io soffro di una malattia cronica, mi sono affidata a questo anestesista di questo ospedale e ne approfittavo. Io sono rimasta inchiodata al lettino, un po' spaventata, un po', questo l'ho capito poi col tempo, pensando che se lo respingevo rimanevo sola anche dal punto di vista medico, non sapevo più a chi rivolgermi e niente, alla fine della seduta poi mi ha detto anche la prossima volta che vieni giochiamo ancora al dottore alla malata. Sì, ma lei quanti anni aveva quando giocava al Questo è successo 5 anni fa, sono grande però non lo so, sono rimasta lì inchiodata, non sono capace. Grande anche misura, no, solo per capire. Sì, io adesso ho 53 anni, avevo 48 anni. Vabbè, una donna, non era una vecchia. Sì, una donna, ma nel senso che Scusi, ma lei l'ha denunciato? No, in pieno possesso. No, questo è il fatto, che non l'ho né denunciato, né sono stata in grado di gridare, né di dargli una... Mentre era sotto anestesia, è chiaro, era... No, io non ero... lui è un anestesista che ancora lavora a questa in clinica, faceva delle infiltrazioni... E la mia rabbia è stata che io non sono stata capace di reagire. Ma lo era per via di un farmaco o perché era paralizzata dalla paura? Questo? Paralizzata dalla paura e soprattutto perché quel periodo dal punto di vista medico ero rimasta sola, perché le malattie croniche si sa che i medici non sono capaci di aiutarti. Vabbè, la faccio breve, comunque era l'unico medico che ero riuscita in quel periodo a trovare, era stato questo anestesista che mi aiutava anche. Ha approfittato di lei sessualmente, solo per capire? Mi ha palpato, mi ha toccato, mi ha... Vabbè, era inequivocabile che non fosse... No, in nessun modo, no. È un altro ambito, è sempre parliamo sempre di molestie, non c'è c'è un altro tipo di ricatto, non è il ricatto o ti concedi o non lavori, però è un ambito altrettanto schifoso su cui magari approfondiremo. Marco, buongiorno. Marco. Buongiorno. L'ascolto. Allora, io sono... un dirigente aziendale, un amministratore di un'azienda e mai nella mia azienda potrebbe mai succedere una cosa del genere. Questo è per l'immagine dell'azienda, una cosa di uno squallore unico. Ecco, ma lei adesso parla a difesa lecitamente della sua azienda o pensa che non ci sono meccanismi concretamente attuabili? I meccanismi esistono, guardi, questi personaggi che nei dialetti delle varie regioni sono chiamati in tutte le maniere possibili e immaginabili, sono dei personaggi conosciuti, riconosciuti. Non è possibile che un consiglio di amministrazione, un'assemblea di non conoscono i propri dirigenti, non conoscono i propri funzionari. E per l'azienda un'immagine ignobile, un'immagine così patetica. Secondo lei le aziende poi hanno strumenti di intervento, lo fanno? Le risulta che l'abbiano fatto. In tronco, c'è il licenziamento in tronco. In tronco, guardi in tronco. L'immagine dell'azienda ne è così colpita da questi personaggi squallidi. Mio padre mi ha insegnato una cosa importantissima: mai in azienda, mai sul lavoro. Sì, vabbè, Marco, prendo atto e non ho motivo di dubitare. Lei sta tracciando un mondo ideale che dovrebbe essere sempre così, ma siccome avviene nelle aziende, avviene negli uffici, avviene negli studi professionali, avviene a tutti i livelli, nei pubblici uffici, evidentemente l'aspetto ideale è molto lontano dalla realtà. Abbiamo soltanto lambito il tema, ma ci torneremo.